2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, questa è una nuova puntata di 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia, in onda venerdì sera, domenica all'ora di pranzo alle 13, naturalmente sempre in podcast. Questa è stata una settimana con le scintille per alcune aziende della tecnologia. Apple ha pubblicato una trimestrale con numeri mai raggiunti nella storia, soprattutto nella storia dell'iPhone. Allora, pensate che ne sono stati venduti 74,5 milioni. Il fatturato trimestrale dell'azienda è salito del 30%, 74,6 miliardi, utile in rialzo del 38% a 18 miliardi di dollari. 18 miliardi di dollari in un trimestre, non so se avete chiara questa cifra. Allora, il risultato di Apple è stato spinto soprattutto dall'ottima performance di iPhone 6, sia del normale sia del Plus, a conferma che questo telefono continua ad avere un appeal nei consumatori, vuoi per il design, vuoi anche e soprattutto per il sistema operativo, che rimane comunque il migliore sistema operativo tra gli smartphone. Allora, nel mare magnum di Android, da rilevare il buon risultato di LG, che ha presentato numeri in crescita, e il risultato non soddisfacente di Samsung, che ha visto frenare la vendita di smartphone. Quindi il mercato degli smartphone pesa molto sull'andamento di aziende che fanno molto altro. Se pensiamo a Samsung, è un'azienda che fa tantissime altre cose, molto forte, sta tra l'altro andando molto bene tutta la parte dei semiconduttori, ma il risultato relativo agli smartphone pesa molto sui fatturati di tutte le aziende. Però tra poco parleremo ancora di smartphone con altri numeri, ma a proposito di fatturati, noi non ci occupiamo di finanza, ci occupiamo di tecnologia, ma ogni tanto vi racconto alcune cose legate ai risultati finanziari per dire che nel mercato della tecnologia in questi anni tutto sta andando a gonfie vele. Poi se si vanno a vedere i singoli bilanci, le singole trimestrali, naturalmente gli esperti fanno tutta una serie di valutazioni e di ragionamenti, perché magari ci si aspettava un risultato più brillante, bla bla bla, però insomma sostanzialmente tutti fanno grandi utili e grandi risultati. Allora, partiamo da in ordine, diciamo, di fatturato, di importanza. A parte Apple, che è un gigante irraggiungibile, allora Amazon fatturato più 15% a 29 miliardi, utili in calo del 10%, comunque 214 milioni di dollari. Microsoft fatturato più 8%, 26 miliardi di fatturato e rotti, utile 5,8 miliardi, in calo del 10%, comunque 5,8 miliardi in un trimestre. Google fatturato in crescita del 15% a 18 miliardi di dollari, utile in rialzo del 40% a 4,7 miliardi. Cresce anche il fatturato trimestrale di Facebook, più 49%, 3,85 miliardi di dollari, utili in crescita del 34% a 701 milioni. Vedremo che cosa succederà con il rafforzamento del dollaro sui mercati internazionali. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana che riassumiamo nelle nostre Digital News. Digital News. Allora, a proposito di smartphone, secondo IDC nel corso del 2014 sono stati venduti 1,3 miliardi di smartphone, con un incremento del 27,6% rispetto al 2013. Nell'ultimo trimestre sono stati consegnati 375 milioni di terminali. Allora, qui stiamo parlando solo di smartphone, non sono compresi i telefonini feature phone, come si dice, perché da 1,3 miliardi di soli smartphone si andrebbe molto vicino ai 2 miliardi di terminali venduti in un anno. Se guardiamo i produttori, secondo IDC, Samsung rimane il primo produttore mondiale di smartphone con una quota del 20%, in calo però dell'11%. Stiamo parlando dell'ultimo trimestre dell'anno. Apple ha praticamente raggiunto Samsung di poco sotto il 20%, con un aumento delle vendite del 46%. Lenovo, che ha anche il marchio Motorola, ha poco più del 6,5% del mercato, quindi da, diciamo, il 20% sia di Samsung che di Apple si scende al 6% di Lenovo, terzo produttore mondiale. Poco sotto c'è Huawei, cinese Huawei, seguita da Xiaomi al 4%. Naturalmente sia Lenovo che Huawei che Xiaomi sono cinesi e sui loro risultati pesano molto le vendite in Cina, soprattutto di Xiaomi, che vende praticamente solo in Cina, però è al quinto posto nella classifica. Nell'ultimo trimestre Xiaomi ha superato LG e quindi si è presa questo quinto posto. Pensate che il 43% del mercato è fatto da altri produttori. Digital News. Quindi c'è una grande frammentazione nel mondo degli smartphone, soprattutto produttori Android. Toshiba ha annunciato la chiusura della divisione TV per il mercato internazionale. Continuerà a produrre per il Giappone, mentre per l'estero i televisori saranno prodotti da aziende terze con diritto di sfruttamento del marchio. Gli unici produttori giapponesi di TV rimasti sul mercato internazionale sono Panasonic e Sony. Digital News. Amazon ha lanciato un servizio di posta elettronica professionale a $4 al mese con 50 giga di spazio di archiviazione. Amazon punta su semplicità e sicurezza ed entra così in un mercato dominato da Microsoft con Exchange, e nel quale cerca di farsi spazio, e se lo sta facendo, Google. Il servizio è compatibile con Outlook, che è molto diffuso in aziende ed è spesso un freno alla migrazione ad altre soluzioni. Sicuramente è un ottimo prodotto Outlook, usato in moltissime aziende in tutto il mondo. Parliamo di Microsoft Office. Dopo il successo della versione gratuita per iPad e iPhone, che ha fatto circa 80 milioni di download, da questa settimana è disponibile la versione di Office anche per tablet Android, gratuita per la versione base, mentre alcune funzioni sono legate ad un abbonamento Office 365. Digital News. Mentre è impegnata nel lancio di Windows 10 anche per smartphone, allora Microsoft ha annunciato che investirà 70 milioni di dollari in CyanogenMed, detta anche all'italiana CyanogenMed, una startup che punta a commercializzare CyanogenMod, un sistema operativo open source derivato da Android. Allora, CyanogenMod, che è usato fra gli altri da un produttore chiamato OnePlus, che però ha appena annunciato di voler fare la propria versione Android. Conferma del fatto che anche nei sistemi operativi c'è grandissimo fermento e molti capitali che girano. Digital News. Nuovo cambio di strategia di Sony per i servizi online di video e musica, tutti finiranno sotto il cappello PlayStation. Allora, spariscono quindi Video Unlimited e Music Unlimited, che facevano parte di Sony Entertainment Network, che una volta si chiamava Curiosity, ricorderete forse. Allora, il nuovo canale di musica PlayStation Music verrà tra l'altro realizzato in collaborazione con Spotify. Raggiungo in breve un paio di notizie. La prima riguarda l'agenzia federale che controlla il settore delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, che dovrebbe presentare giovedì 5 una proposta di regolamentazione sulla neutralità della rete. Magari faremo la prossima settimana o nelle prossime settimane un po' il punto della situazione anche in Europa. Se ne sta discutendo, pare che ci sia una proposta che è stata apprezzata, una proposta della nuova presidenza dell'Unione Europea. Vedremo insomma nelle prossime settimane che cosa succederà a proposito di neutralità della rete, tema molto importante. Allora, la Germania metterà a disposizione l'autostrada A9 per il test di veicoli a guida autonoma. Verrà anche costruita un'infrastruttura di comunicazione per consentire pure i test di comunicazione vettura-strada e vettura-vettura, per far sì che i produttori tedeschi di queste tecnologie non vadano solo in Silicon Valley, in Nevada, dove questi test sono permessi su strade normali, ma possono stare in casa propria. Allora, la cosa ancora più interessante, secondo me, è che il ministro dei trasporti tedesco, Alexander Dobrindt, ha detto che i costruttori tedeschi devono sviluppare una piattaforma software che sia indipendente dai colossi americani e cinesi. Questo è molto importante perché c'è un dibattito forte in atto, soprattutto i produttori tedeschi si sono un po' ribellati, BMW e Audi, nei confronti di Google, che in cambio del software Android per l'automobile chiede un po' troppi dati, e i produttori tedeschi hanno detto no, noi questi dati non te li vogliamo dare. E il vero rischio è che i produttori di automobili diventino schiavi dei produttori di software di Apple e di Google, così come potrebbe succedere per le nostre case. Se le case diventeranno smart home, case automatizzate, piene di sensori, di controlli, gli hub di controllo di questi sensori potrebbero passare attraverso i server e i software di Apple e di Google. Allora, le automobili a guida autonoma sono un buon esempio di intelligenza artificiale. Una macchina capace non solo di eseguire un programma, ma in grado di prendere decisioni in autonomia sulla base dell'esperienza che la macchina ha acquisito. Allora, qui il termine macchina è sinonimo di automobile, ma se noi utilizziamo il termine macchina in generale possiamo pensare a tante altre applicazioni. Che ne so, un drone militare che riconosce una persona, interpreta una situazione, capisce se si tratta o no di una situazione di pericolo e decide se intervenire o no, senza che qualcuno da Langley in Virginia, dalla CIA, decida e spinga un bottone, tutto in autonomia. Allora, questo è un settore dove si concentrano molte risorse, molti capitali, molte ricerche. Uno dei settori, ad esempio, sono i robot per l'assistenza personale, ma già oggi ci sono tanti esempi di intelligenza artificiale. Pensate agli assistenti vocali degli smartphone. Uno fa una domanda, il sistema dà una risposta. È vero che non ci azzeccano sempre, però siamo solo agli inizi di questa evoluzione. Allora, un esempio che non vediamo, ma che ha un impatto sulla nostra vita, sui nostri soldi, sono i mercati finanziari. Allora, già oggi miliardi di dollari sono scambiati sulla base di computer che sono in grado di leggere le notizie, interpretare il mercato con una capacità che un uomo non ha, perché la macchina legge una quantità di dati, una quantità di notizie che nessun uomo sarebbe capace di fare. Allora, tra l'altro, mi dicono che le autorità di vigilanza sui mercati finanziari stanno già ponendosi il problema: se queste macchine diventano sempre più potenti e sempre più in grado di prendere decisioni, quindi di comprare e vendere azioni, bisognerà tenere sotto controllo l'evoluzione di questi sistemi. In tutti i casi, in molti si chiedono se e come è giusto valutare le conseguenze ed eventualmente mettere dei limiti a queste macchine sempre più brave. Allora, ha fatto sicuramente notizia questa settimana il fatto che Bill Gates, pochi giorni fa, abbia preso posizione sul tema e ha detto: oh ragazzi, qua bisogna stare attenti a quello che succederà con l'intelligenza artificiale nei prossimi decenni, ma forse decenni è una misura anche troppo larga, prima che sia troppo tardi. Tra l'altro, proprio Bill Gates sta lavorando ad un progetto che si chiama Microsoft Personal Agent, un agente personale, non è proprio un robot, ma un agente personale che ci dovrebbe aiutare nella vita di tutti i giorni, ci ricorda quello che dobbiamo fare, insomma, un po' più di un assistente personale col calendario al quale siamo abituati sullo smartphone. Allora, c'è anche, Bill Gates ha fatto notizia perché è Bill Gates, ma ci sono tanti altri personaggi che stanno parlando di questo tema. Allora, c'è un gruppo di scienziati che ha scritto una lettera per attirare l'attenzione su questo tema. La professoressa Francesca Rossi è docente di informatica all'Università di Padova, sta passando un anno sabbatico ad Harvard negli Stati Uniti ed è uno dei primi firmatari di questa lettera. La lettera è stata scritta soprattutto per dimostrare che la comunità scientifica vuole un approccio costruttivo a questi temi, che sicuramente sono da considerare, cioè dell'impatto dell'intelligenza artificiale e della tecnologia in generale sulla società, sull'economia. Quindi la lettera è molto breve e dice semplicemente che la ricerca deve costruire delle macchine sempre più intelligenti, ma anche con attenzione agli aspetti etici, agli aspetti di impatto sulla società, perché uno degli ingredienti principali di una macchina intelligente è che possa prendere delle decisioni da sola, cioè che sia autonoma. Quindi questo vuol dire che le decisioni verranno prese sulla base di un codice che il programmatore inserirà all'inizio, ma spesso le macchine intelligenti modificano il loro comportamento usando degli algoritmi che si chiamano di apprendimento automatico, e cioè cercano di migliorare sempre di più le proprie decisioni sulla base dell'esperienza che hanno nel corso del tempo e delle nuove situazioni che si trovano ad affrontare. Quindi noi vogliamo essere sicuri che queste macchine possano essere autonome, prendere decisioni, e sicuramente le prenderanno anche molto meglio degli umani e riusciranno quindi a dare delle ripercussioni molto positive anche, però vogliamo che ci sia una qualche attenzione effettivamente alla verifica, alla validazione che queste macchine siano così sicure. Un tipico esempio è quello, no, delle auto che guidano da sole senza bisogno di un umano che le guidi, la tecnologia è già molto avanti in questo campo, e queste auto sicuramente saranno molto più sicure dei guidatori umani, perché non si stancheranno, non scriveranno sul telefonino quando guidano, non si addormenteranno, eccetera. Quindi ci sono tantissime vittime degli incidenti stradali a causa di queste motivazioni, quindi le macchine sicuramente salveranno tantissime vite, però bisogna essere sicuri appunto che ci sia un livello di sicurezza alto, più alto di quello umano. Questa lettera è stata firmata all'inizio di questo convegno che è stato fatto a Porto Rico, dove c'era circa un'ottantina di scienziati di tantissime discipline, non solo di intelligenza artificiale. Quindi la lettera vuole proprio dire: cerchiamo di avere un approccio costruttivo, non basiamo le nostre parole sulla paura di quello che può succedere senza sapere effettivamente cos'è che è lo stato dell'arte in intelligenza artificiale. La lettera appunto ha anche questo convegno che c'è stato a Puerto Rico, che ha generato la lettera, ha generato anche firme di persone che in precedenza invece avevano dimostrato molta preoccupazione, come Elon Musk, Stephen Hawking e altri, e in particolare appunto questo approccio costruttivo mi sembra che sia stato accettato da queste persone, in particolare da Elon Musk, che appunto a Puerto Rico ha annunciato di dare questa donazione di 10 milioni di dollari per finanziare proprio progetti concreti di ricerca per costruire macchine sempre più intelligenti, ma anche con attenzione alla sicurezza. Senta, quando parliamo di conseguenze e quando si dice pensiamo oggi alle conseguenze che queste macchine potranno avere, sull'impatto che potranno avere sugli uomini, sul mondo in generale, a che tipo di conseguenze possiamo pensare? Possiamo fare degli esempi? Sì, allora appunto nel caso delle auto che guidano da sole, sicuramente queste auto saranno autonome e quindi si troveranno a dover prendere delle decisioni anche in situazioni critiche, come può succedere a un guidatore umano. Quindi bisogna essere sicuri che le prendano queste decisioni in un modo che segua dei valori che noi pensiamo allineati ai nostri valori. Un altro esempio di impatto che avverrà sulla società e di cui bisogna chiaramente tenere presente e studiare abbastanza bene è chiaramente l'impatto di queste macchine cosiddette intelligenti, cioè che sanno effettuare dei lavori di tipo cognitivo e non solo dei lavori di tipo manuale, e che potrebbero rimpiazzare alcuni lavori effettuati dagli umani e che quindi avranno un impatto non piccolo sulle economie delle varie società nel mondo. E quindi anche insieme agli economisti appunto stiamo cercando di capire insieme a loro quali sono i possibili scenari futuri e come è possibile appunto fare fronte a queste nuove situazioni e nuove diciamo strutture della società, dove probabilmente molti lavori non ci saranno più, quindi altri lavori sicuramente verranno fuori, saranno nuovi, però sicuramente sarà una riorganizzazione da capire come affrontarla e soprattutto da capire in breve tempo, perché i cambiamenti avvengono molto velocemente. Sì, questo forse è un aspetto che molti sottovalutano, cioè la velocità con cui questi cambiamenti avverranno. Tra l'altro, visto che stiamo parlando di macchine che imparano, uno dei grandi vantaggi delle macchine è che imparano molto velocemente. Quindi a maggior ragione questo processo di macchine che diventano sempre più intelligenti accelera sempre di più. Senta, le faccio un'ultima domanda. Questo appello è fatto solo alla comunità scientifica o si espande oltre? Perché alcuni potrebbero pensare, e sicuramente c'è chi propone entità sovranazionali che controllino questo fenomeno, controllino le derive, un po' come se noi pensiamo al nucleare, una tecnologia che di per sé non è né buona né cattiva, però può avere conseguenze negative. Esistono delle strutture sovranazionali che controllano lo sviluppo di questa tecnologia e fino ad oggi diciamo che sostanzialmente il sistema ha funzionato e ha retto. Sì, diciamo anche durante le discussioni che abbiamo avuto anche in questa settimana, proprio durante tutta questa settimana c'è stato a Austin, Texas, il convegno generale più grande di intelligenza artificiale, dove ci sono stati anche affrontati questi temi. anche della possibile regolamentazione, possibili organismi internazionali. Per esempio ieri c'è stato un dibattito sul possibile divieto di sviluppare armi autonome. E quindi la discussione è molto animata su questi temi. Pensiamo che non, diciamo che questi organismi internazionali e moratorie divieti abbiano un senso, potrebbero avere un senso per esempio nel caso dello sviluppo di armi autonome, ma invece per quanto riguarda la ricerca e non lo sviluppo vero e proprio di artefatti basati su intelligenza artificiale, pensiamo che appunto abbia un senso invece sensibilizzare tutti i ricercatori di intelligenza artificiale, come ha cercato di fare questa lettera, a generare macchine sempre più utili, intelligenti e con tantissime ripercussioni positive sulla nostra società, ma cercando appunto di eliminare i possibili comportamenti non desiderati. Quindi diciamo l'enfasi è sull'individuare linee di ricerca concrete che vadano in questa direzione. Questo è un tema estremamente interessante, estremamente importante, naturalmente ha anche un proprio grado di difficoltà, perché dobbiamo immaginarci alcune cose che potranno accadere nel futuro, però se noi andiamo magari anche online con i tanti servizi che ci propongono film online, ci compriamo, ci noleggiamo un bel Terminator oppure un Matrix, beh, alcune di queste cose erano già state pensate dal cinema da molto tempo, quindi è una cosa di cui si parla da molto tempo. A proposito di esempi e a proposito di intelligenza artificiale, abbiamo parlato anche con Amedeo Cesta, che è un ricercatore del CNR ed è anche presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale. Possiamo pensare a delle cose che facciamo tutti i giorni, come interpretare il linguaggio, quindi capire il linguaggio parlato di qualcuno, capire un testo scritto, classificare un'immagine, saper riconoscere da un'immagine se una persona sta ridendo, se una persona sta semplicemente camminando, oppure se ci sta comunicando indirettamente qualcosa, ammiccando a noi. Insomma, quindi, dopodiché possiamo pensare a un veicolo autonomo, e quindi a una macchina, cammina automaticamente, autonomamente, quindi qualcosa che da un certo punto di vista ci può spaventare, a chi risponde questa macchina, se è completamente autonoma, oppure ci può tranquillizzare, così non ci saranno incidenti, perché le macchine sono autonome e il fattore umano che può causare dei problemi lo abbiamo rimosso. Oppure possiamo pensare a un problema che per esempio adesso con l'esplosione di internet è molto, che tocca quasi tutti, no? Il problema della traduzione automatica, abbiamo accesso a molte informazioni, ma molte non le capiamo e ci piacerebbe avere questa abilità di tradurre autonomamente. Poi pensiamo di nuovo invece in termini personali, possiamo pensare a una persona che cammina, quindi a un robot che cammina, quindi cade le gambe, che cammina, ma possiamo pensare a una funzione sociale di questo robot, per esempio un robot che aiuta una persona anziana aiutandolo in casa, assistendolo continuamente, oppure aiuta la vecchietta che vuole attraversare la strada. Insomma, cioè, possiamo insomma pensare a varie di queste diciamo attività, a livelli anche diversi di astrazione, insomma, e a livelli generale. Possiamo anche pensare per esempio all'abilità invece di analizzare grosse mole di informazioni e l'abilità di ricostruire un contesto da questa grossa mole di informazioni, oppure ad esempio pensiamo a un uso di grosse mole di dati per capire trend, per capire cosa pensa la gente. Chiaramente quando lei comincia ad andare su questi settori può anche pensare ho questa abilità sofisticata, come la uso, ok? Quindi ad esempio tipicamente un grosso interesse in questo momento è l'interpretazione da questi dati di estrazione, da questi dati di informazione per dare, ad esempio, sulle social network, adesso mi viene in mente un tipo di applicazione, un'informazione personalizzata, ti seleziona automaticamente delle cose che ti interessano. Questo può essere per puro divertimento, per pubblicità, quindi per vendere meglio delle cose, ma può essere invece un aiuto sul lavoro, per esempio nell'interpretazione dei dati finanziari. I fenomeni sociali sono talmente complessi che si può essere aiutati da queste tecnologie per, in fase di anche decisionale, per fare analisi più sofisticate di quelle che un umano può fare, sì, da solo, o molte... anche un gruppo di persone può fare lavorando collettivamente. Insomma, è chiaro che questa nozione di intelligenza la possiamo in qualche modo rendere elastica in varie direzioni. Allora, abbiamo detto che molti di questi sistemi esistono già. Pensiamo, appunto, l'abbiamo già citato, agli assistenti vocali che noi abbiamo sullo smartphone. Quale sarà il prossimo passo? Ecco, un altro punto interessante in questo momento che guida lo sviluppo è questa idea che il maturare di queste tecniche, per me, mentre in precedenza la nostra area è tipicamente sottosettoriale, la cosa interessante in questo momento è che i miglioramenti tecnologici, anche dovuti alle macchine più potenti, all'esistenza di internet e proprio al miglioramento invece delle nostre tecnologie di AI, sta permettendo di affrontare problemi complessi mettendo insieme varie di queste abilità, quindi migliorando dal punto di vista dell'interpretazione dei dati, ma anche poi interpretandoli in modo astratto e quindi sintetizzando delle funzioni complesse a livello di presa di decisioni. Ecco, questa è la fase di evoluzione in questo momento, l'idea dell'agente intelligente che percepisce la realtà, quindi è in grado di analizzare dei dati e poi di fare delle azioni su questa realtà e influenzarla. Ecco, il punto chiave della transizione in effetti è la presa di decisione autonoma, cioè il fatto che creiamo un sistema autonomo nel prendere decisioni. Ecco qui che entriamo nella sfera molto delicata. Chiaramente lo possiamo pensare ad applicazioni che in questo momento cominciano a essere possibili, di una sorta di maggiordomo intelligente che fa qualcosa per noi, o il robot intelligente che comunque comincia ad essere autonomo intorno a noi, però il punto chiave è questa autonomia a livello di scopi, che a un certo punto può arrivare a punti estremi, cioè a divergere dagli scopi direttamente utili agli umani. Ecco, allora, esatto, qui, questo è uno dei punti dibattuti. Ecco, le faccio una domanda proprio su questo dibattito. Ci sono molti scienziati che sono preoccupati, non solo scienziati, ma parto da questi, che sono preoccupati dalle conseguenze che macchine molto intelligenti e soprattutto molto più intelligenti degli umani possano prendere il controllo della situazione, quindi sfuggire al controllo degli umani. Qua ci sono anche degli scenari che sono stati raccontati e dipinti da molti film, e se questi film ci azzeccano, chiaramente questi scienziati avrebbero ragione. Esiste effettivamente questo pericolo, cioè è corretto preoccuparsi oggi di queste conseguenze? Dunque, l'ultima domanda che mi ha fatto: è corretto preoccuparsi? Secondo me sì, perché chiaramente il miglioramento tecnologico, l'avanzamento della scienza non si può fermare. Il problema è l'estrema velocità con cui possono accadere certi fenomeni. La velocità di evoluzione è tale che noi la vediamo durante la nostra esistenza, mentre prima rimaneva a livello storico. E questo significa che noi dobbiamo creare delle persone che sono più abili ad interpretare questi cambiamenti, quindi a viverli e a interpretarli in positivo, perché altrimenti possono avere impatti distruttivi. Il punto chiave è dare alle persone, quindi proprio nel modo di formarle, la possibilità di capire questi fenomeni estremamente multidisciplinari e quindi di creare persone più robuste rispetto ai cambiamenti sociali. Chiudiamo questo capitolo dedicato all'intelligenza artificiale, torneremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a parlare di questo tema. Allora, tra poco parleremo di Internet of Things, la Internet degli oggetti, che alcune aziende chiamano anche Internet of Everything, per sottolineare che mano a mano che il tempo passa, sempre più oggetti diventano intelligenti e connessi alla rete internet. E anche qui ci colleghiamo all'intelligenza artificiale, poi anche il tema dei big data si collega sia alla Internet of Things che all'intelligenza artificiale. Bene, ne parliamo tra poco, parleremo anche di sicurezza, c'è un nuovo problema in giro per la rete anche in Italia, ne parliamo tra poco a 2024. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, tra poco sarà con noi Massimo Banzi, che è l'inventore di Arduino, poi spieghiamo che cos'è Arduino, parleremo anche di Internet of Things, adesso invece parliamo di sicurezza delle comunicazioni, delle nostre comunicazioni su computer, su tablet, su smartphone. Trend Micro, ma è una segnalazione che ci è arrivata anche tramite altri canali, ha individuato un nuovo attacco di un agente pericoloso che si chiama CryptoLocker, poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Per questo saluto Gastone Nencini, che è il country manager di Trend Micro in Italia. Benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Che cos'è questo CryptoLocker? Non è un virus, è un'altra cosa. Che cosa? Allora, CryptoLocker è un malware, fa parte della categoria dei malware e in particolar modo fa parte di una categoria che è chiamata ransomware. La parola ransom in inglese significa riscatto ed è proprio quello che è lo scopo finale di questa tipologia di attacco. Sostanzialmente l'attacco, noi riceviamo una mail, in questa mail troviamo un allegato, aprendo l'allegato il nostro computer viene infettato e lo scopo è quello di andare a crittografare, quindi a rendere illeggibili quelli che sono documenti presenti all'interno, i file presenti all'interno del nostro computer. Per poter riaver possesso dei file originali è necessario pagare un riscatto. Riscatto che varia da qualche decina di euro a qualche centinaia di euro. La cosa importante che tengo a sottolineare, invito gli utenti a non pagare assolutamente perché non vi è certezza e garanzia di recuperare i file. Poi le chiedo che cosa fare, però le volevo chiedere prima, è un po' una sorta di moda della rete questa dei ransomware, perché ne abbiamo già parlato e pare che si stiano diffondendo molto questi tipi di attacchi. Oggi dietro gli attacchi informatici non abbiamo più lo studente che vuol dimostrare la sua bravura, dietro gli attacchi informatici di qualsiasi genere c'è la criminalità organizzata, quindi ci stanno persone che cercano di monetizzare il più possibile quello che riescono a fare con un attacco informatico. Il ransomware, come diceva lei, non è una cosa nuova, è una cosa che abbiamo visto sotto altre forme. La cosa particolare di questo ransomware, che anche lui non è la prima volta che viene utilizzato, è che permette il pagamento in bitcoin, quindi per essere ancora più nascosti possibile, per non essere intercettati gli autori. E l'altra cosa carina è che per dare fiducia all'utente che deve pagare hanno allungato i tempi di disponibilità della chiave che permetterebbe la decriptazione dei file. Però ripeto, non c'è certezza assoluta che pagando si riandino indietro i propri file. L'unica soluzione è quella di avere una copia di backup dei file e della macchina. Quindi uno ha la propria copia e quella copia che viene bloccata in questo modo che lei ci ha spiegato da questi criminali, diciamo, la dobbiamo dare per persa. Addirittura cosa dobbiamo fare? Formattare i dischi dei computer, cioè buttar via? Tutto. Sicuramente no, fare comunque sia dei controlli con software appunto in grado di poter effettuare controlli per verificare che la macchina sia malware free, quindi priva della sorgente del CryptoLocker, dopodiché si può ripristinare la copia. E questa è un'operazione che consiglio vivamente a tutti gli utenti, perché è capitato che più di un utente, pensando di andare a recuperare la copia, ha attaccato immediatamente il backup senza preventivamente pulire la macchina e si è ritrovato con la macchina e il backup criptato. Quindi con un pugno di mosche in mano alla fine. Senta, io personalmente parlo di backup da quasi 15 anni, sento parlare di backup da 20 anni, insomma da tantissimi anni si parla dell'importanza di fare il backup. Quindi uno potrebbe pensare, vabbè, ma ancora oggi dobbiamo richiamare l'attenzione sul backup? Purtroppo sì. Purtroppo, essendo una fase, una procedura lunga che porta via tempo, viene fatta da pochissimi utenti. Noi abbiamo il concetto del 3-2-1, noi di solito consigliamo, anche se non facciamo backup, però facendo sicurezza consigliamo sempre, come nel processo, di mantenere aggiornate le macchine, di avere copie sempre aggiornate dei propri dati, di avere tre copie, due su due differenti media, quindi non so, può essere un CD-ROM, un DVD o quel che è, e un'altra è un'ulteriore copia su una, addirittura su un, mantenuta in una location separata, proprio onde evitare qualsiasi tipo di problema che possa impedirmi di recuperare i dati nel caso in cui la macchina fosse attaccata, sia da un guasto tecnico che da un malware. Nencini, la ringrazio, grazie e buon lavoro. Grazie a presto. A voi. Grazie a voi. E quindi fate attenzione, soprattutto, come abbiamo detto, il veicolo principale di accesso di questi problemi, di questi malware, sono le email. Quindi quando ricevete un'email, purtroppo anche in teoria da indirizzi conosciuti, bisognerebbe stare più attenti, o comunque avere a bordo software che proteggono dai malware, ma bisogna comunque stare attenti a queste email che arrivano. Però alcuni giorni fa, pochi giorni fa, c'è stato a Milano il Internet of Everything Italian Forum, l'appuntamento italiano dedicato alla Internet of Things and Everything, potremmo dire, la Internet degli oggetti, la Internet di tutti gli oggetti. Internet of Things è un modo di chiamare questo fenomeno, questa evoluzione tecnologica ideato da Cisco, che ha appunto organizzato a Milano all'interno di Cisco Live, che è un appuntamento mondiale di Cisco, proprio che si è tenuto questa settimana a Milano, ha tenuto questo appuntamento dedicato invece alla Internet of Everything. Abbiamo avuto occasione di incontrare Massimo Banzi, che è stato invitato a parlare. Massimo Banzi è l'inventore di Arduino, questa scheda che è molto nota in tutto il mondo, ha fatto un grandissimo successo, è un po' alla base di quello che viene definito anche il fenomeno dei makers, ma potremmo dire che è uno dei tasselli fondamentali della Internet of Things, è una delle tante things, uno dei tanti oggetti. Ascoltiamo questa interessante intervista con Massimo Banzi. Allora, Arduino, in gergo tecnico si usa il nome piattaforma per indicare il fatto che è una combinazione di un software, di codice, di documentazione, di un modo di spiegare come si fa a usare l'elettronica come strumento creativo, e poi ha una manifestazione fisica che è questa scheda elettronica che tutti blu, che insomma molti conoscono. Però quello che è importante è proprio questa combinazione di tutti gli elementi, dove si cerca di prendere una cosa complessa come l'elettronica, che prima richiedeva degli ingegneri, e si cerca di spiegarla in un modo più comprensibile. Si sfrutta che i processori ormai sono diventati cose che costano molto molto poco, diventano grandi come ormai la capocchia di un, no, di uno spillo, e che sono diventati più facili da programmare. Allora noi, usando questa semplificazione della tecnologia digitale, creiamo questo strumento che permette a bambini, artisti, inventori, piccole aziende, PMI, di creare prodotti elettronici, di sperimentare, di fare ricerca, di provare, di costruire cose. Insomma, questo è un po'. È così facile? Ma allora, diciamo, è molto più facile. Poi è chiaro che se uno dice. Bisogna sempre essere un po' esperti, diciamo. No. Come in tutte le cose ci vuole passione, cioè nel senso che è chiaro che se uno vuole imparare a suonare il pianoforte, l'atto di premere il tasto del pianoforte sembra semplice, poi suonare bene richiede anni di pratica, e Arduino è un po' così. Sì, ci fai degli esempi? Sì. Che cosa si potrebbe fare con Arduino? Ce ne sono mille, 10.000, tantissimi. Certo, beh, visto che siamo qui all'Internet of Everything Forum, Dico, per esempio, uno dei primi progetti connessi fatti con Arduino è stato che gli studenti americani hanno realizzato una scheda che si inserisce in una pianta e misura l'umidità, la quantità di luce, la temperatura, e poi dà in qualche maniera una vita alla pianta, perché la pianta su Twitter ti scrive dicendo: guarda che qua ho una sete pazzesca. Cioè non è che ti scrive livello acqua, no? Ti parla come se fosse un essere umano, dice: manca l'acqua, ho tanta sete, oppure qua fa veramente buio, no? E questo umanizza la pianta e ti permette in qualche modo di interagire con la pianta via Twitter. Però c'è gente che, per esempio, facevo l'esempio prima, che cittadini giapponesi che non si fidavano delle informazioni provenienti dal governo sulle radiazioni del disastro di Fukushima hanno costruito 100 contatori Geiger connessi a internet con Arduino e hanno creato una mappa viva del livello di radiazioni in tutto il pezzo, diciamo, di Giappone, e hanno dimostrato che le radiazioni erano molto di più e avevano una forma diversa da quella che diceva il governo. Ci sono piccole e medie imprese anche italiane che utilizzano il Arduino, che alla fine nella sua, cioè è una scheda, è un piccolo computer, come cuore per delle macchine che poi fanno lavorazioni industriali, per cui si va dal progetto giocattolo alle installazioni artistiche. Per esempio nei musei in giro per il mondo si usa molto Arduino per fare progetti interattivi museali, a proprio applicazioni più pratiche. Costa? No, la scheda più semplice costa circa 20 euro. Quindi pochissimo, insomma. Sì, poco. Diciamo che la cosa. C'è un kit, una scatola che costa circa 75-80 euro, che contiene, oltre alla scheda, tutti i componenti elettronici necessari a partire, e poi c'è un libro con 15 esercizi. Che se uno parte da niente, li fa uno dopo l'altro, impara a costruire 15 progetti e quando ha finito ha imparato abbastanza da potersi muovere e fare i propri progetti, perché poi il modo per imparare non è sedersi e fare una lezione teorica che non finisce più, ma è di costruire una cosa, vedere come funziona e poi cominciare a dire: ma se io sposto questo, faccio quest'altro, cosa succede? E allora tu parti dagli esempi e ti crei i tuoi progetti. Il 90% dei prodotti Arduino, anche fatti da professionisti, partono da: costruisco uno degli esempi che trovo in rete e poi lo modifico finché non diventa quello che voglio. Una delle cose note di Arduino è che è un progetto open source, quindi certo, io volendo domattina mi metto lì, faccio una scheda uguale. Certo. Allora, per quale motivo? Perché voi dite il segreto, cioè il vero cuore di tutto questo grande fenomeno sta altrove, sta anche naturalmente in Arduino, ma altrove. Ma sì, sicuramente ci sono due aspetti. Da un lato c'è l'aspetto del brand, cioè noi abbiamo lavorato molto sul marchio Arduino, quasi come se fosse un marchio di moda, per cui se una persona vuole in qualche maniera supportare, crede in Arduino, non compra, diciamo, una versione compatibile fatta da qualcun altro, perché tanto i file sono disponibili, si può fabbricare facilmente, ma compra quella originale per supportare in qualche maniera il progetto. Però poi il trucco qual è? L'open source è una cosa per cui le istruzioni per costruire la scheda e per il software che usiamo, che la parte veramente importante è il software con cui viene programmata la scheda, la logica che c'è dietro, il modo con cui tu spieghi le cose alle persone, quelle sono cose molto difficili da codificare, è più facile codificare un circuito. E poi è un po' come, io uso sempre la metafora del panino, no? Esistono paninoteche migliaia in giro per l'Italia, però c'è sempre, i panini hanno la ricetta che è open source, il panino col prosciutto lo possono fare chiunque, no? Non c'è copyright, però c'è sempre una paninoteca che quel panino lì lo fa più buono di un altro. Allora c'è questo discorso dell'ingrediente segreto, che tu hai sempre, anche se fai open source, hai sempre un ingrediente segreto che permette alle persone di dire come lo fanno loro è più buono. Infatti esistono ormai, credo che le schede originali ufficiali Arduino siano probabilmente forse il 25% del mercato, il 75% sono tanti altri prodotti fatti da altre persone che usano il nostro software per il loro prodotto, per cui diciamo che... Quindi l'ingrediente magico o segreto esiste anche nel software. Certo, nel modo in cui tu prendi magari dei software che sono open source e li impacchetti in un certo modo, come tu prendi il prosciutto, il formaggio e l'insalata, però magari che prosciutto, che formaggio, in che ordine, in che panino, cioè queste variabili fanno un panino buono, scarso, schifoso. Senti, visto che siamo al Internet of Everything Forum, abbiamo parlato della Internet delle cose, la Internet di tutte le cose, beh, innanzitutto ti piace questa definizione? Pensi che descriva molto bene quello che sta succedendo o te ne viene in mente un'altra? No, diciamo che in questo momento, siccome questa, credo che questo mondo sia talmente in evoluzione che i termini si susseguiranno, ne cambieranno, poi ogni azienda cerca in qualche modo di proporre la propria visione, no? Perché siamo in un momento in cui siamo all'inizio, ognuno cerca di spingere la propria filosofia. Quello che è chiaro ed è evidente è che sempre più oggetti di tutti i giorni diventano intelligenti, chiamiamoli così, e connessi. Allora, quello che succede è che questo può portare sicuramente grandissimi benefici che possono migliorare la vita delle persone, però appunto è importante anche capire come progettare questi prodotti e questi servizi in modo che aiutino le persone e non gli complichino la vita, magari in altri aspetti. Cioè, tu hai fatto l'esempio del frigorifero connesso, che da tanti anni, adesso non so se esiste proprio, però c'è l'idea, diciamo, ma non interessa quasi a nessuno. Ma sì, certo, io su YouTube mi sono messo a cercare un po' di video di quelli che fanno le aziende ogni anno in cui dicono il mondo del futuro. Ho trovato questi video degli anni 70, 80 in cui dicevano: ah, ecco, il frigo connesso. Negli anni 80 non c'era veramente internet, non era popolare, c'è un frigo connesso in qualche maniera, no? Il frigo del futuro. Poi alla fine quello che è successo è che alcune aziende, anche grosse, hanno provato a fare dei frigo dove c'è dentro un computer che ti permette di collegarsi a internet. Però alla fine, perché non ce l'abbiamo in tutte le case? Perché non sono riusciti a convincerci che quella cosa lì ci cambia la vita? Mentre altre cose meno complesse, come sto vedendo il sensorino della pianta, quello magari ti cambia più la vita, perché tu ami la tua pianta, non hai tanto tempo di seguirla, quel sensorino ti aiuta a capire quando è il momento di... Oppure tu hai un genitore anziano e tutto, gli metti dei sensori in casa e tu sei tranquillo perché sai quando magari succede qualcosa di pericoloso, lo sai tu istantaneamente, e puoi anche da remoto magari fare una telefonata, chiamare qualcuno. Per cui ci sono delle applicazioni potenzialmente molto molto utili, che se uno le vede dice: caspita, mi risolve la vita. E quelle lì sono quelle che stiamo cercando di identificare adesso, che forse ancora non ci sono, ed è per questo motivo che Internet of Things, of Everything, diciamo come vogliamo, è ancora agli inizi. Ma da un certo punto di vista questa è anche una grande opportunità, e forse va detto anche alle aziende: guardate che dovete osservare questo fenomeno attentamente, perché sennò poi vi sfugge di mano. Assolutamente sì, cioè questo qui è una grandissima opportunità per tante persone. Chiaramente adesso c'è questo, in qualche maniera, la moda delle start-up, no? Che fanno applicazioni web, mobile, è chiaro, quello è comprensibile. Però in questo spazio qui c'è ancora tantissimo da fare, tante opportunità, e soprattutto per fare anche cose che hanno un impatto vero sulla... Cioè, l'applicazione mobile che ti dice come far a trovare qualcuno con cui giocare a calcetto quando sei al parco è un'applicazione che veramente fa qualcosa per la vita delle persone. Secondo me, io preferisco la seconda, e spesso ha più impatto. Per cui ragazzi, persone, aziende, giovani, donne, bambini, cioè, lanciatevi, perché questa è una cosa da capire, perché c'è immense possibilità e non è un campo che è stato già completamente conquistato. Ultima domanda: tu giri molto per il mondo, per lavoro naturalmente, raccontaci come vedi l'Italia immersa in questo fenomeno della digitalizzazione in generale, al di là della Internet of Things in particolare. Ma sì, allora, sicuramente oggi il digital champion dell'Italia a questo evento ci ha spiegato che siamo quelli meno digitalizzati d'Europa, per assurdo, in proporzione, che è un vero peccato. Però poi la cosa che invece io riscontro è che quando incontro persone digitalizzate c'è grande valore, c'è gente veramente in gamba. Per cui io vedo adesso tanti ragazzi italiani che stanno cominciando a uscire dal guscio, vanno a Londra, fanno aziende, vanno a New York, presentano i loro prodotti. Per cui devo dire che, non so come dire, è quasi l'infrastruttura dell'Italia è complessa, è difficile fare impresa qui, è difficile. Però poi le persone, che c'è tanta gente con grande valore, per cui sono molto ottimista per quello. Bene, questa era la voce di Massimo Banzi, che abbiamo avuto occasione di incontrare questa settimana, e siamo stati anche fortunati ad incontrarlo al microfono, cosa che io preferisco rispetto al telefono, ma a volte non si può fare altrimenti. Massimo Banzi gira spesso in tutto il mondo, quindi è non facilissimo da raggiungere. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì sera ma anche la domenica tra le 13 e le 13.30 in versione ridotta, e anche in podcast, quindi al termine della trasmissione sarà disponibile la nostra versione in podcast. A proposito di Internet of Things, Internet of Everything, continueremo a parlarne tra poco. 2024. Se parliamo di Internet of Things, Internet degli oggetti, di questo fenomeno molto interessante che, come diceva poco fa Massimo Banzi, offrirà tantissime opportunità, e soprattutto le aziende devono cominciare ad osservare. Molte aziende stanno già facendo prodotti e servizi, stanno già implementando e dando connettività e intelligenza agli oggetti, ma sicuramente sono ancora molte le aziende che devono ancora capire che cosa poter fare e come tuffarsi in questo trend tecnologico che sta cambiando molti settori, e molte cose cambieranno molto. Probabilmente nel mondo consumer c'è ancora molta confusione, ne abbiamo parlato anche recentemente, mentre nel mondo industriale c'è un po' più di chiarezza. Anche qui naturalmente il mondo cambierà molto nei prossimi anni, ma ci sono già molte applicazioni che possono essere implementate e applicate in molte aziende. Allora, abbiamo parlato di questo, e soprattutto per capire proprio il motivo per cui alcune aziende, in primis Cisco, stanno spingendo molto verso questa direzione, abbiamo parlato con Davide Bevilacqua, che è responsabile dell'area Sud Europa di Cisco. Beh, perché vediamo tutti gli indicatori intanto del mercato che ci dicono, per esempio, che il numero di sensori che sono stati spediti nell'ultimo anno è duplicato rispetto all'anno precedente. Vediamo che cresce quasi del 50% gli investimenti dei venture capital rispetto a iniziative legate all'Internet of Things. Vediamo che aumentano i numeri di persone impiegate nell'industria dell'Internet of Things, programmatori, per cui c'è un fenomeno che sta accelerando. E poi cominciamo a vedere concrete realizzazioni che si spostano ad essere dei piloti e cominciano invece ad essere dei veri e propri progetti industriali. Parliamo spesso della Smart City, no? Come uno di quei luoghi dove si può vedere concretamente che cos'è l'Internet of Things all'opera. Sensori sui cassonetti della spazzatura che sono in grado di rilevare i contenuti all'interno del cassonetto e quindi informare quando sono pieni ed essere presi, non avere invece un processo che programma qualsiasi ha sempre la stessa ora la mattina. O pensiamo anche a come viene gestita la mobilità e il traffico. Tutte queste cose stanno avvenendo in un modo sistematico e quindi cambiano proprio il modo in cui le persone vivono all'interno di una città. Se noi guardiamo all'Europa, visto che tu sei responsabile dell'area Sud Europa e comunque sei a contatto con tutto quello che succede nella nostra Europa, se guardiamo l'Italia, la confrontiamo con gli altri paesi? Guarda, noi tendenzialmente non siamo un paese che è stato molto attento all'innovazione tecnologica, no? La spesa in ICT in Italia ci vede sempre al fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei. Per quanto riguarda il tema dell'Internet of Things, vediamo soprattutto la Germania avere una fortissima attenzione. Loro, che sono una forte dimensione del mercato manufatturiero, hanno compreso che l'Internet of Things è una rivoluzione industriale che parte proprio dal manufatturiero, per cui c'è una grande attenzione. Paesi come la Francia hanno messo in piedi delle strategie molto interessanti legate all'IoT. Barcellona, in Spagna, Barcellona è forse riconosciuta come la città più evoluta al mondo da un punto di vista dei progetti di Smart City. Allora, a livello sistemico, credo che l'Italia sia indietro. Poi abbiamo eccellenze come quelle che erano oggi presenti qua, clienti. Se noi guardiamo i grandi clienti italiani, hanno intrapreso attività. Pensiamo a Fiat con la Connected Vehicle, o le cose che ci ha detto Enel sullo Smart Grid. Addirittura siamo molto più avanti rispetto agli altri. La differenza spesso è che noi abbiamo poche grandi aziende e molta piccola e media impresa. Allora, le grandi aziende seguono e vanno alla stessa velocità o anche più forte degli altri competitor europei. Ma il nostro sistema è fatto di piccole e medie imprese che invece rallenta, e quando guardiamo anche la pubblica amministrazione siamo ancora in uno stato di molti progetti piloti che non hanno ancora raggiunto un livello di sistema. E a proposito di cose che si stanno già facendo, che si possono già realizzare, abbiamo parlato con Agostino Santoni, che è l'amministratore delegato di Cisco Italia, e abbiamo parlato anche di alcune cose che vedremo tra pochi mesi presentate a Expo 2015. Agostino Santoni. Ma questo è un percorso tecnologico straordinario. Noi parliamo di rivoluzione industriale e la logica è proprio quella di pensare all'information technology e Internet of Everything, che collega le persone, i processi, le cose e i dati. Come si traduce questo come adozione, come velocità di adozione da parte delle imprese italiane e delle pubbliche amministrazioni? Il mio pensiero è che è una tecnologia straordinariamente veloce, semplice da utilizzare e per tutti. Noi abbiamo, grazie all'esperienza di Expo 2015, quando abbiamo pensato di diventare partner di Expo 2015, l'abbiamo pensato in due modi. Il primo, di realizzare un fantastico showcase dove lì faremo vedere al mondo che cosa vuol dire Smart Cities e l'applicazione di Internet of Everything. E il secondo, perché il tema di Expo sarà il cibo, energia per la vita, come lasciare una traccia di quello del quale si parlerà all'interno di Expo 2015. Abbiamo sviluppato una soluzione con un partner italiano che si chiama Penelope, che consente a tutta la filiera dell'industria agroalimentare, circa 880.000 imprese in Italia, il 17% del PIL, la possibilità di tracciare e rintracciare digitalmente il prodotto. Dal campo di grano alla confezione della pasta, dal grappolo d'uva alla bottiglia di vino, dal latte al prodotto finito che è il formaggio. E quindi è un'opportunità straordinaria per dimostrare, forse nella prima volta, come si riesce con la tecnologia a prendere un'intera filiera e digitalizzarla. Il secondo mercato dove vediamo una straordinaria opportunità ed è così importante per il paese è l'industria manifatturiera. Il 19% del PIL. Io penso che il secondo paese in Europa, perché noi siamo il secondo paese in Europa nel manifatturiera, debba prendere velocemente questa innovazione e questa tecnologia per alcuni temi importanti. Uno, migliorare la produttività. Due, sviluppare nuovi modelli di business e nuovi prodotti che integrano il digitale, con una logica che è la logica di internet straordinariamente sicura. Io penso che grazie all'IoE noi saremo in grado di dare una voce digitale al nostro paese. Alcune delle cose che stanno succedendo succedono, come ad esempio nel caso dell'Expo, perché voi siete i promotori di questa innovazione. Altre cose succedono prevalentemente perché ci sono grandi aziende che stanno spingendo sulla internet delle cose. Le aziende italiane in generale, medie, piccole, molte, medio e piccole, hanno capito, hanno compreso? Ma come sempre l'adozione è caratterizzata anche dalla geografia di riferimento di queste imprese, dove lavorano. Le aziende che hanno una maggiore esposizione verso il mercato globale hanno già capito che tutte le aziende diventeranno tecnologiche e tutte le aziende dovranno avere al loro interno delle competenze di information technology. Lì il percorso sarà velocissimo. Le imprese più piccole penso che sia la capacità di Cisco, ma dell'intera industria e dei nostri partner, di riuscire in modo semplice a comunicare i benefici di questo. Io sono convinto che la velocità di adozione di questa tecnologia sarà paragonabile a quello che è avvenuto con gli smartphone e con i tablet, perché è semplice e perché ha un'attenzione e una forte valorizzazione da parte dei consumatori. Così concludiamo questa puntata di 2024, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di Internet of Things, due cose che in qualche modo sono collegate, sono connesse. Diciamo che molte delle evoluzioni tecnologiche che stiamo vivendo e che stiamo commentando anche al 2024 sono molto collegate. A proposito di Internet of Everything, anche Qualcomm ha cominciato a chiamarla così. Cisco è stata sicuramente l'azienda che ha introdotto questa novità dalla Internet degli oggetti, dalla Internet of Things alla Internet of Everything, quindi la Internet di tutti gli oggetti, giusto per sottolineare che potenzialmente tutti gli oggetti possono essere connessi e diventare intelligenti, essere pieni di sensori. Allora, dicevo, ho letto un po' di ricerche in questi ultimi mesi ormai, traducendo alcune delle considerazioni di queste ricerche. Allora, i freni maggiori sono sostanzialmente due. Allora, il primo è un problema di sicurezza. Ci sono ancora molte società, molte aziende che mettono come primo punto, e sapete che noi siamo particolarmente sensibili ai problemi di security, di sicurezza, quindi siamo d'accordo che in alcuni casi devono essere risolti i problemi di sicurezza. E poi c'è un problema legato alle persone che lavorano nell'IT e lavorano anche nelle aziende, i maggiori freni allo sviluppo della Internet of Things sono anche legati alla poca capacità di visione dei reparti IT. Alcuni sono bravissimi, ma alcuni mica tanto. Allora, a proposito di freni, recentemente anche su alcuni media internazionali si è parlato molto del costo dei sensori, e c'è chi sostiene che ancora oggi i sensori in generale costino ancora troppo, e quindi nei prossimi anni ci si attende un ulteriore abbassamento dei prezzi, e questo potrebbe essere un motivo per accelerare gli investimenti in progetti Internet of Things. I settori che già oggi beneficiano di queste evoluzioni sono quello delle infrastrutture, dell'industria in generale, la prima in assoluto l'industria manifatturiera, e qui i maggiori benefici sono un aumento dell'efficienza, e poi c'è tutto il grande settore con tanti punti di domanda ancora, ne abbiamo parlato anche recentemente, della casa, e quindi della home automation e di tutti gli strumenti che potrebbero rendere migliore la nostra vita. Avremo occasione di tornare su questo argomento, potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, potete utilizzare anche Twitter o la nostra pagina Facebook. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa che è la versione podcast del nostro programma, consigliate anche ai vostri amici, ai vostri colleghi, a persone che si occupano di tecnologia, che magari hanno perso anche qualche dettaglio, che sono poco attente all'evoluzione tecnologica, a chi si occupa del bene pubblico, dei politici, nei piccoli e grandi comuni, consigliate di scaricare il podcast di 2024. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.